Pensi che sia un game tra me e te, tra me e te. Bruciamo come twin flames, twin flames, twin flames. Mi sognavi come baby mama, sognavi di unire l'Italia. Sognavo per me la stessa trama, ma lo sai che l'hai resa più complicata. A me bastava l'acqua salata, la tua saliva che sa di ganja. Fare le cose con quella calma che spegne il cervello e poi accende la stanza. Vorrei, vorrei, vorrei mostrarti quello che ho dentro e dare retta all'universo per donarti un momento eterno. Ma non cambierai mai, cercherai me quel difetto che non ti fa cadere il tetto addosso. Sai che tanto io ti conosco. Vorresti dirmi di no, ma il tuo corpo poi mi parla. La la la, la tua lingua è un'altra, ma se dici no non mi sa di casa. Mi guardi da un'ora, pensi che potremmo farlo ancora. Non di sotto questa luna rosa, non di sotto questa luna rosa. Sai, diventano anni, seguendo il vento, gioco col tempo e lui spera che mi sbagli. E forse da allora non passa un'ora in cui non smetta di amarti. La nostra storia è già consumata, ancora prima che sia iniziata. Troppi pensieri, solo buchi neri, e forse eri tu la cura per l'ansia. A me bastava cambiare aria, noi sulla macchina, i bimbi per strada. Fare le cose con quella calma che spegne il cervello e poi accende la stanza. Vorrei, vorrei, vorrei mostrarti quello che ho dentro e dare retta all'universo per donarti un momento eterno. Ma non cambierai mai, cercherai me quel difetto che non ti fa cadere il tetto addosso. Sai che tanto io ti conosco. Vorresti dirmi di no, ma il tuo corpo poi mi parla. La la la, la tua lingua è un'altra, ma se dici no non mi sa di casa. Mi guardi da un'ora, pensi che potremmo farlo ancora. Non ti sotto questa luna rosa.